בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Ancora una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara. Sono le 22:18 minuti prime in questo istante. Abbiamo appena terminato di parlare con Gerardo Carmine Gargiulo. Adesso la seconda parte riservata a un libro molto particolare che si intitola Io e Lucio Battisti. Allora, chi meglio dell'autore può parlarci di questo libro che è uscito recentemente e già sta riscuotendo un buon successo? E allora diamo il benvenuto a Pietruccio Montalbetti. Buonasera Pietruccio. Buonasera a tutti, ciao. Vorrei scusarmi per non essere stato presente qualche giorno fa, ma purtroppo volevo scusarmi con gli ascoltatori. Era stato annunciato, ma ero in un bunker dove non c'era segnale, quindi chiedo scusa e sono qua a vostra disposizione. Benissimo, allora grazie Pietruccio Montalbetti. Ricordiamo Dick Dick, abbiamo iniziato proprio la nostra trasmissione ascoltando un pezzo di qualche tempo fa, era l'isola di Wight e noi eravamo piccoli ad ascoltare i Dick Dick e queste canzoni, ma ora parliamo di un tema che allora dicono tutti: Lucio Battisti è stato raccontato dall'alto, da destra, da sinistra, ma tu Lucio Battisti in questo libro, Pietruccio, lo racconti da dentro? No, allora, innanzitutto ci ho messo un po' di tempo a decidere di scrivere questo libro. Dopo aver letto il decimo libro con delle cose di un Lucio Battisti famoso, mi sono detto, ma ci sono delle cose improprie, delle cose che non rispondono alla verità. Un Lucio Battisti famoso, lo conosciamo un po' tutti, ma chi è come uomo Lucio Battisti? E l'unico che poteva raccontarlo ero io. Era Pietruccio Montalbetti, amico di Lucio Battisti. Sì, anche perché io l'ho conosciuto quando lui suonava in un'orchestra, l'ho conosciuto alla fine del mese di novembre del 1964, quando noi siamo arrivati negli studi di registrazione della Ricordi e per fare un provino, e casualmente c'era anche lui che doveva fare un provino per fare ascoltare le sue canzoni. In quel caso lì, quella volta lì, non eravate ancora i Dick Dick, ma eravate un altro animale. Gli squali, ecco, esattamente gli squali. E cosa suonava Pietruccio quando l'hai sentito al pianoforte, Lucio? Ma suonava un pezzo di Ray Charles. Esattamente. Quando in milanese sono arrivato un po' prima. Gli studi di registrazione dei Ricordi, una volta, innanzitutto si usavano le quattro piste, era un nastro così, e avevano affittato durante la settimana il cinema parrocchiale di Via dei 500 a Milano. Esattamente. Durante la domenica facevano i film e durante la settimana invece si sgombrava la parte centrale, si metteva il pianoforte, la batteria e dietro un vetro c'erano due tecnici che registravano. Tutto molto molto naif. Certo. Sì, tu dici tra altre cose, Pietruccio, che il tuo primo impatto appunto con Lucio è stato ho visto questo ragazzo al pianoforte con una montagna di capelli ricci e una giacca stretta, un po' come poi aveva una giacca un po' sdrucita di pelle e stava suonando un pezzo di mi ricordo era Giorgia My Mind, sì. Così, era lì che aspettava, c'era buio, non erano ancora state accese le luci, le porte che stavano all'esterno perché si fumava la domenica, no, e c'era il film, erano state aperte, così era un po' questo puzzo di fumo. Non, i tecnici non erano ancora arrivati, i miei compagni non erano ancora arrivati, io ero arrivato con la mia 500 e c'erano dei lucernari un po' che illuminavano leggermente questo grande salone. Mi sono avvicinato così per curiosità e ho visto questo ragazzo, lui mi ha guardato, mi ha detto: tu chi sei? Ma io mi chiamo Pietruccio e faccio parte di un complesso, vorremmo fare un provino per fare un disco, bene. E tu? Ma io sono di Poggio Bustone, sono in un'orchestra, i campioni, e voglio farti le mie canzoni. E e tutto finisce lì. Però nasce, sai, quelle cose che si chiamano empatia, esatto. Cioè subito un feeling tra di noi così spontaneo. Poi arrivano i miei compagni, arrivano i tecnici, si accendono le luci, noi facciamo, avevamo preparato due o tre pezzi da provinare, ci siamo messi lì con le chitarre, lui mi è rimasto vicino, ho visto che mi scrutava e mi dava delle indicazioni su degli accordi, diceva guarda, mi chiamava, mi ha subito chiamato, invece che Pietruccio, a Pedro, ma se c'è l'accordo lì, è meglio quel re, è meglio metterlo così, così. Ho capito che sapeva bene le cose. Poi abbiamo fatto i nostri due provini, tre provini, non mi ricordo, era un pezzo dei Beatles con traduzione italiana, due o tre, non mi ricordo più quali erano. Poi i miei compagni hanno preso, se ne sono andati via, lui mi ha chiesto, dai stai qua, così mi dai una mano, non musicalmente, ma così mi aiuti, sono un po' emozionato. Poi, detto che era lontano, lui aveva una pensione in centro, tu hai così mi accompagni e così. Poi c'erano degli intervalli, ogni tanto c'erano degli intervalli, no? Lui faceva delle cose, c'è stato tra noi e lui c'è stato un intervallo, allora mi ha detto, ah Pedro, vieni che ti faccio sentire le mie canzoni. Mi ha fatto sentire le sue canzoni ed erano, come a Milano si dice, delle cittadine. Cioè non erano proprio belle. No, non erano neanche, ma neanche, neanche canzoni. E allora e lui ti diceva, a pie, che te ne pare, no? Ah, ok, che te ne pare. Io, che era un periodo che cominciavo ad ascoltare Radio Luxembourg, sentivo un po' la musica americana, così, cominciavano a sentirsi i Beatles, i Rolling Stone, gli Animals, questi rock and roll. Gli dicevo, gli ho mentito subito, gli ho detto, sono male, ma tra me e me dicevo, ma poveraccio. Ma questo l'ha detto anche Mogol, ti ricordi? Me l'ha detto anche Mogol alla prima esibizione, ha detto, ha talento, è bravo, però ha delle canzoni assolutamente negative. Ma no, ma difatti io quando poi dice, questo qua andrà a fare il posteggiatore, ma... però, sai, la simpatia è avulsa dalle canzoni che mi faceva sentire. Poi l'ho accompagnato in Piazza del Duomo, è scomparso della mia vita. Sapevo che sarebbe andato a fare una tournée con la sua orchestra, i campioni, sai quelle tournée europee dove vai con l'orchestra, no? Poi io mi ero dimenticato, avevo parlato con mia mamma, gli ho detto, sai, ho trovato un ragazzo simpatico, mi era subito rimasto simpatico, ma non ovviamente per le sue canzoni, perché erano veramente mediocri. Poi noi abbiamo firmato il contratto con la Ricordi, il 24 dicembre sto attraversando la Piazza del Duomo a Milano, sono in queste giornate un po' come nella sua canzone uggiose, cominciava a nevicare, c'era questa atmosfera natalizia che ormai non c'è più, non c'erano tante luminarie, c'era un alberello un po' sguarnito, però c'era questa atmosfera bella di una Milano semplice. E sto camminando così con i miei pensieri, contento di avere un contratto, così mi sento tirare la giacca, mi volto e vedo uno che mi dice, a Pedro, te ricordi di me, sono Lucio? E dico, sì, c'era lo stesso giubbotto di allora, freddo cane, era magro con questa bella testa, e gli ho detto, ma Lucio, ma quello è? Allora mi dice, guarda, siamo andati in tournée e non è andata tanto bene, anche perché la gente è fredda, poi fa un freddo cane là su al nord. Aveva finito i soldi, vero Pietruccio? Era quello, ecco. E poi gli dico, domani è Natale, cosa fai? Sai, io stasera devo suonare e poi non ho abbastanza soldi, pago la pensione o vado, e dico vabbè dai, e poi mi dice, dai, beviamo, ti offro una cioccolata, un caffè, e poi mi dice, guarda, perché non vieni giù stasera, c'era un locale che adesso non c'è più, Piazza San Babbio, si chiamava il Tricheco, no? Era una specie di night, adesso non c'è più, è diventato un grande magazzino, mi fa, perché non vieni giù stasera, così ci senti l'orchestra. Torno da mia mamma e gli dico, sai che ho incontrato questo ragazzo, questo Lucio simpatico, e mi chiede giustamente, ma domani dove va? Ma niente, sta qua, ma no, ma assolutamente, ci ho detto, dico, stasera vado giù a sentirlo, così, ma no, tu li devi invitare qui a Natale, cioè figurati lasciare un ragazzo così solo. Poi ti è simpatico molto, mia madre mi adorava, e gli dico ma sì, io glielo provo a chiedere, tanto siamo io, il papà, la zia Ines, mio fratello Cesare che poi è diventato suo fotografo ufficiale, per cui ha fatto tutte le copertine così. Allora vado giù a sentirlo, mi vede tutto contento, felice, erano tutti vestiti con delle giacche rosse e dei calzoni neri con la riga ed erano tutti allineati come dei soldatini di piombo tipo i mille di Garibaldi batteria, no, chitarra, trombone, tromba, contrabbasso, non basso, contrabbasso, poi c'era il pianoforte, pianoforte e non c'erano le tastiere. E Lucio suonava la chitarra, vero Pietruccio? Sì, suonava la chitarra, era una Fender rossa. Ah. E niente, poi c'era Robby Rossi, calzoni neri, giacca rossa, invece Robby Mattano, il cantante, era tutto vestito di nero col fasciolino, cantava delle canzoni da night, ogni quattro canzoni smettevano, poi riprendevano, c'erano molte signorine più di uomini, quindi mi sono reso conto che era un night quello, sai, io ero abbastanza ingenuo. E poi a mezzanotte siamo sempre, ma io e lui abbiamo fatto tante cose assieme, eravamo due. A Milano si dice Lacciotti, cioè proprio eravamo molto scaffati, ma la cosa non mi turba affatto perché eravamo semplici. Poi finita, adesso tu sai che in tutte le città, specialmente qui a Milano, ma anche lì in Veneto, la movida comincia a mezzanotte. Qua invece lì finiva a mezzanotte finiva tutto e quindi si è seduto il tavolo, mi ha chiesto come era l'orchestra e io anche lì ho mentito perché era un'orchestra per la base, ma è bello, suonate bene, suonavano bene, ma erano canzoni. Quindi, ma mi sento di dire, Pietruccio, che in quel caso lì erano delle bugie che poi si sono rivelate a fin di bene in questo caso. Ma sì, perché l'hai spronato in un certo senso. No, non è che l'ho spronato, è che era un canzone. Cioè, lui però mi diceva: sai, io non sono soddisfatto, io ho dentro qualche cosa che non riesco a esprimere. Io non era contento delle canzoni, sapeva, un giorno gli ho detto, guarda Lucio, posso dirti una cosa, proprio da amico, dopo un po' di tempo, no? Sì. Dopo alcune audizioni è andate proprio male, dicevo no, non ci interessa, dico Lucio, posso darti un consiglio, guarda, io ti voglio bene, ormai facciamo parte della nostra famiglia, perché poi il 25 dicembre è venuto a mangiare a casa nostra e ha passato sia il 25 che il 26 a casa nostra con mia madre, che era sì una brava donna eccezionale, ma era molto affezionata a Lucio anche perché gli dava soddisfazione. Mia madre era brava, ma era una pessima cuoca. Hai scritto pessima cuoca, faceva bene le cotolette solamente, hai detto, hai scritto. Ma no, faceva le cotolette che ci voleva la fiammosina. Ah, sì. Vabbè, allora Pietruccio, ci fermiamo qui un attimo per ascoltare qualche canzone, così fare un po' breccia anche di quello che è la trattazione del tuo libro. Io e Lucio Battisti, è uscita per Salani. Esatto, Salani Editore, sì. Allora ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Dolce di Giorno e che portava la firma, oltre che di Battisti, anche di Mogol e di Angiolini. Ce l'ascoltiamo dove eri tu assieme ai tuoi amici Dick Dick. Poi suonavi l'armonica qua, vero? L'armonica e la chitarra, ed è stato il primo, il secondo disco che, perché il primo era, dopo te lo racconto dopo. Benissimo, allora sentiamo Dolce di Giorno. Ce l'ascoltiamo, breve pausa, siamo ai Dick Dick con Dolce di Giorno. Sera, sei tu. e niente di più. Quando c'è il sole tu parli d'amore, poi quando è sera c'è una statua di cera. Ho già deciso che questa è l'ultima volta che esco con te. Abbiamo ascoltato questo pezzo dei Dick Dick, Dolce di giorno si intitola la canzone, era il 1966 e questa canzone è stata scritta da Angiolini Mogol e da Lucio Battisti. E noi siamo qui in questa serata assieme a Pietruccio Montalbetti, un Dick Dick, questa antilope africana di cui sono dette tante cose, è vero Pietruccio? Sì, sì. Come mai siete passati da squali a Dick Dick quella volta? Ma guarda, perché squali non ci piaceva, poi era già inflazionato, poi era legato ad una cantante che si chiamava Miriam del Mare, Mare, Squali, così. Allora, quando ci hanno fatto il provino, io ho detto, troviamo un nome. Io avevo, era un periodo che leggevo dei libri, io ho sempre letto avventure e poi ho fatto delle grandi avventure. Sei stato un esploratore, hai viaggiato, hai viaggiato in tutto il mondo, Pietruccio. Sono tutt'oggi un esploratore. Esattamente. Ho fatto l'anno scorso, ho scalato 7000 metri della Concagua, poi vabbè, questo qua è un altro discorso. Tra l'altro uno che quando tornavo dai viaggi mi diceva, Pietru, vieni qua, mi devi raccontare tutto. Del Messico, quando hai raccontato del Messico a Lucio. Sì, no, tutto gli devo raccontare, così. Comunque, il primo disco veramente che abbiamo registrato di Lucio Battisti era dietro al primo disco che abbiamo fatto, perché questo è il retro di Sognando la California. Esattamente, esattamente. Giorno. Mentre il primo disco che abbiamo fatto con la Ricordi era un pezzo di Len Berry, si chiamava 1, 2, 3, e dietro abbiamo messo, ho voluto io metterlo per simpatia e per dare una soddisfazione ad un amico, una canzone, la meno peggio, no, si intitolava Se rimani con me, e firmata, se guardate il disco, c'è firmata Battisti. Battisti non conosceva ancora il Mogol, faceva Amore se rimani con me, ti giuro sarò dolce con te e farò tutte le cose che vorrai, è sicuro che non te ne pentirai, amore se rimane. Questo era lo stand, era la meno peggio. Quando vide il disco con scritto il suo nome, rimase entusiasta. Poi, quando noi arrivamo primi in classifica con Sognando la California, che ci si aprì un mondo fantastico, fantastico, ma fino a un certo punto per me, perché poi dopo 3 anni io ho cominciato a sclerare perché volevo vedere il mondo e il mondo non riuscivo a vedere così. Però ricevevo molte interviste, i giornali parlavano e tutte le volte io dicevo, però mettete anche il nome di Lucio Battisti, che tu mi diceva, ma chi è sto Lucio Battisti? Voi mettete il nome di Lucio Battisti, perché stavo parafrasando esattamente quello che facevano i Birds. Perché i Birds hanno avuto la funzione, tra l'altro erano una specie di gruppo che quasi non esisteva, hanno fatto Tambourine Man e parlavano sempre di questo Bob Dylan, dicevano chi è questo Bob Dylan. E io ho fatto la stessa cosa con Lucio, e ogni articolo, e ne venivano fuori tantissimi, c'era sempre: noi abbiamo così un amico che farà strada, ma io non ci credevo, lo facevo proprio per simpatia, che si chiama Lucio Battisti, e i miei giornalisti mi dicono: ma chi è sto Lucio Battisti? voi mettete su Lucio Battisti. Poi quando lui leggeva il giornale diceva: ma no, ma... Mi diceva, aveva un'espressione un po' non volgare, ma così scurrile, che è meglio non ripetere, così ammazzo che para, figlio, no, sì. Era tutto felice, contento, andava in giro a far vedere, tanto è vero che telefonava a sua mamma: ma piglia il giornale, c'è scritto anche il mio nome. Allora, chi era Lucio Battisti? Era una persona di una semplicità estrema, anche simpatico. Era semplice nella vita, ma non semplice nella musica, era complesso nella musica. A volte ci siamo in primi tempi, ancora prima di diventare famose, noi siamo arrivati al traguardo prima di lui, poi dopo lui ci ha superato di gran lunga, però insomma noi ci siamo arrivati in maniera forte, come Sognando la California. Certo, ma Sognando la California, Pietruccio, Lucio, mi pare che la prima stesura ha trovato qualcosa che non andava bene, ti ha fatto rifare un momento, vero, del pezzo? No, certo, perché lui a un certo punto si è creato, dopo tante audizioni a tante case discografiche, dove io lo accompagnavo insieme alla sua editrice, si chiamava Christine Leroux, una francese molto carina, tutte le volte lui faceva sentire le solite canzoni, io ero lì nell'angolo, lei mi portava dietro per dire: dai, così gli dai un po' di coraggio, e poi magari ti vedono, così. E tutte le volte dicevo: no, non ci interessa. Allora un giorno a Cristina mi fa: guarda, l'ultima speranza è parlare con, andare da Mogol. Io non sapevo neanche chi fosse, ho sentito nominare Mogol, ma non sapevo. Allora mi ha detto: dai, vieni anche tu, così almeno mi dai un po' di coraggio, perché la tua presenza, la mia presenza, per il mio carattere, gli ha sempre dato una sorta di tranquillità, non so perché forse io sono una persona estremamente tranquilla, non difficile che mi arrabbi e che mi smuovo, ho concepito la vita in maniera molto semplice, anche per i viaggi, sono stato in Tibet, ho acquisito del modo di concepire la vita che deve essere vissuta giorno per giorno. Comunque arriviamo da Mogol sente le solite canzoni, io sono lì in trepida attesa, Mogol gli dice: guarda, le tue canzoni fanno schifo. Bene, e Lucio dice: sì, hai ragione, bene, però c'è qualcosa di interessante, facciamo così: tu da domani vai lasci l'orchestra, noi ti diamo un piccolo appannaggio come edizione, da domani buttiamo via tutto e ricominciamo da capo. Nello stesso tempo lui aveva chiesto alla Ricordi di occuparsi di noi, quindi ci siamo trovati io, noi, Mogol e Battisti. Io ero felice perché era un mio amico, quindi Mogol ha detto: allora facciamo così, lavoriamo in questa maniera, mentre io sto facendo delle canzoni con Battisti, tu Lucio, nei momenti liberi, tu devi seguire questi qua passo dopo passo, tu diventerai il produttore esecutivo, quindi anche nei concerti, nel posto, infatti me lo sempre, portavo sempre dietro, era sempre con me. Allora Lucio sempre... però era sempre con te, era sempre con voi, Dick, e non era solamente, diciamo, il produttore, era anche il vostro autista. Sì, esatto. È stato l'autista, autista. Sì. È stato, perché era diviso in due il cantagiro, da una parte andava in macchina, poi le macchine dovevano essere prese da uno che guidava la macchina e noi proseguivamo in treno. Io l'ho imposto, la Ricordi non voleva, ma io l'ho imposto, anche perché lì si cantava dal vivo, e al mixer c'era lui che ci dava una mano al mixer per le voci, e poi quando abbiamo lasciato le macchine per pigliare il treno, lui ha preso la macchina e l'ha portata a destinazione praticamente. Poi noi eravamo in periodo, noi abbiamo fatto questo cantagiro con Il Vento, ma eravamo già famosissimi perché avevamo fatto Sognando la California, Senza Luce, quindi eravamo agli apici, nell'apice della carriera. E io quando entravo, specialmente io, entravo in un albergo, la folla fuori, i ragazzi, non potevo più uscire. Eri una star, Pietruccio. Eri una star all'epoca. Era molto famoso, quindi era una star. Sì, ma io guarda, tu pensi che io da ragazzo non volevo fare questo lavoro, mi sono trovato perché volevo fare il navigatore solitario, pensa a me, la gente piace, però ogni tanto bisogna, non è che mi sono mai montato la testa, ho sempre mantenuto i piedi per terra, certo. anche in quei momenti lì, però la difficoltà è che se dovevo pigliare, non so, un'aspirina, non potevo uscire, certo. Allora dicevo Lucio dai vammi piano un'aspirina, ma ecco, poi dormivamo assieme, abbiamo fatto un particolare molto carino, arriviamo, lui comincia innanzitutto decide dopo un po' di cantare, e la ricordi perché dice a Pedro sai che io comincio a dare le canzoni alla Mina, a Patti Pravo, ad altri, così, però non le cantavano come ce l'aveva in mente lui. Allora un giorno viene da me e fa Pedro, sono costretto a cantare, io non ci voglio fare cantante, ma sono costretto a cantare perché nessuno le canta come ce l'ho in mente io. E dico, beh, fai bene. Cioè, allora, questa cosa viene all'orecchio della Ricordi, eravamo nella stessa casa discografica. Allora gli amministratori delegati erano Guido Lignano e Clausetti, al terzo piano, gente che non capiva assolutamente niente di musica, sì. Ma i discografici non hanno mai capito tanto la musica, sono sempre andati dietro l'onda, non sono gli artisti che si sono imposti, e non volevano che lui cantasse. Allora c'era la figura del direttore artistico, si chiamava Iller Pataccini, e il Pataccini mi chiama, mi telefona, mi fa senta, mi dava del lei, senta Pituccio, vengo qua che le devo parlare, ma chissà cosa mi deve dire, non so che cavolo mi deve dire. Allora arrivo nel suo ufficio un po' imbarazzato e mi dice guardi, sa, al di sopra, i piani di sopra, i miei delegati hanno saputo che deve cantare e quindi lei dovrebbe, non vogliono più i canti, lei potrebbe dissuaderlo. Anche però, perché in quel momento lì sappiamo il direttore artistico è un po' quello che viene fatto fuori per primo, no? Nel caso che il tutto non funzioni, per cui aveva una certa titubanza nel sì, no, ma io gli ho detto guardi maestro, io ci proverò, ma non ci ho mai provato, non ho mai sognato. Ma poi arriva il giorno in cui lui si comincia a cantare e non ha un gran successo inizialmente. Arriviamo a fare il Festival di Rieti, un Festival di Rieti che è proprio a due passi da Poggio Bustone, dove lui è nato. Festival di Rieti, eravamo in cinque noi, più lui sei. Io allora avevo preso la Porsche, una Porsche rossa, arriviamo al Festival di Rieti, non so, era televisiva la cosa, e c'era anche lui che cantava. Io ero in camera con lui, innanzitutto vedo il suo aspetto fisico, l'avevo già intravisto, però lì cioè ci spogliavamo così, ho visto che aveva delle gambe molto segnate da dei segni particolari, erano delle smagliature, e lui mi dice, sai, io da bambino ho sofferto molto perché ero obeso e ho avuto una discriminazione, tutti i bambini non mi facevano giocare, quindi mi sono rifugiato un po' nella musica. Allora io per consolarlo ho detto guarda che anch'io non è che fossi tanto magro, non ero peso, allora guarda che ero anch'io. Allora mi dice vabbè adesso ma come mi vesto io per questa cosa? Io avevo appena comperato un paio di pantaloncini che se voi vedete nelle molte fotografie sono bianchi con delle piccole righine nere. Ho appena comperato un paio di nei suoi primi video li potete notare. Ho comprato un paio di pantaloni. È meglio, ma prova questi pantaloni, gli andavano a pennello, mi fa ma Pedro, me li ha comperati, anche questa cosa qua della sua pigrizia, della sua avarizia è tutta una sciocchezza, è una balla, tra l'avarizia e la parsimonia c'è un sottile confine, la gente confonde l'avarizia con la parsimonia. L'avarizia è una cosa deprecabile, la parsimonia è il pensiero che il denaro ha un valore, allora anche se ne hai tanto, la cosa importante che io ho nella testa e che molti dovrebbero avere, artisti come della nostra epoca, è di non dimenticare le proprie origini. Certo, questa certo. È l'umiltà, è la cosa più assoluta, perché tra me e il portinaio non c'è nessuna differenza. Quando ci viene il mal di pancia, ci viene tutto il mal di pancia. Tutte e due. La differenza è che io sono stato un po' più fortunato di lui, quindi ecco, sì. La gente mi ferma, ad esempio, quando tanto vado al mercato a fare la spesa qua vicino. Una volta mi fermo uno e fa una fine, e poi lui dice sì, ma va a fare la spesa, c'è cioè, i segreti di pranzo, sì, perché ma come va a fare la spesa? C'è la donna di servizio che noi abbiamo una donna di servizio che è così, è impegnata a fare una cosa, mancava dell'insalata, sono andato a fare la spesa. Ah, certo. Detto, scusa, ma che cosa c'è di così strano? Gli ho detto, guardi che quando lei ha il mal di pancia, gli ho detto, ce l'ho anch'io uguale, ce l'abbiamo uguale. Non è che io demando il mio segretario ad avere mal di pancia, se devo andare in bagno ci vado io. Non si domanda a nessuno il momento del bisogno. No, allora, è andato via sconsolato. Certo. Allora arriviamo al festival di lì in camera, gli metto su questi pantaloni, poi lui aveva due cicatrici al collo. Se voi notate, non l'avrete mai visto col collo nudo, ho sempre avuto sempre col foulard, sì, che tu hai comprato. Era un foulard. Che hai regalato te. No, che gli ho regalato, con gli altri me li ha pagati. E il foulard me l'ha invece regalato, io portavo foulard un po' alla gigolò. Questo foulard qua poi è diventato un po' un suo simbolo, se l'è portato anche perché doveva coprire queste due cicatrici. Mm-hmm. Facciamo il festival di Rieti e poi mi dice, Vedrù, mi devi fare un favore. Non parlava bene italiano, però ogni tanto con l'impressione del retino. Sai, qua c'è Poggio Bustone, il mio paese, mi piacerebbe che tu andassimo, facessimo una deviazione e io potessi far vedere che sono amico di uno dei... detto, ma sì, dai, figurati. Allora aveva, non so, fai conto, 150 anni, questo paesino qua, è un paese arroccato sulla montagna, adesso se ne avrà 3.000, non so. A lui aveva già telefonato alla posteria e in piazza ci aspettavano tutti e lui si vantava, diceva, vedi, questo qua è il mio amico, cioè, era tutta una cosa così, ecco, questo, cioè, che cosa voglio raccontare in questo libro? Io adesso non posso raccontarvi tutte le piccole favole, tipo l'incontro con le due mamme, altre cose di legittime che abbiamo fatto, le piccole vacanze, gli amori perduti. Allora direi, Pietruccio, lasciamo un po' di curiosità ancora ai nostri ascoltatori, magari sì, permettendoci un'altra breve pausa musicale, sempre con la musica di Dick, sì, e poi andiamo su un pezzo più famoso. C'è un piccolo aneddoto su questo pezzo, sì. Sognando a California. Allora sì. Dopo te lo racconto. Me lo racconti dopo. Allora ce l'ascoltiamo. Se lo racconto subito. No, me lo racconti dopo, che è molto interessante. Ok, intanto sogniamo la California, eccola qua. Su, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, dove il blu non c'è, sento solo freddo, fuori e dentro me, ti sogno California. Io cerco di pregare, ma il mio pensiero invece va, ritorna sempre là, al sole caldo che vorrei, che qui non verrà mai. Ti sogno California. Se so che partirei, ti sogno California. Sogno California. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Era il 1966, i Dick Dick cantavano Sognando California, questo disco diciamo di importazione, nel senso Mamas and Papas lo cantavano in Dreaming California, e Mogol aveva preso questa musica di Philips e l'aveva diciamo tradotta, coverizzata. Sì, Pietruccio. A dire la verità l'ho trovata io. Ecco, com'è la storia, Pietruccio? No, la storia è che io andavo spesso negli studi della Ricordi ad ascoltare, non c'era la possibilità, Battisti, non c'era la possibilità di costruire delle canzoni per noi gruppi, perché non avevamo dietro di noi quello che avevano i Beatles, gli altri, il blues, il rock. Noi la musica che avevamo dietro le spalle, in cui potevamo ispirarci, era la musica di Gianni Latilla, Claudio Villa, è una musica oppure popolare, napoletana. Quindi noi abbiamo avuto la funzione di importare e traghettare non solo una musica che sentivano i giovani, ma anche un modo di essere, un costume. Passando per gli uffici della Ricordi, c'era uno che si chiamava Vittorio Castelli, che ascoltava, arrivavano 45 giri di importazione e io li sentivo tutti i giorni, passavo di lì, finché ho sentito questo pezzo mi è venuto uno svenimento e sono andato da Peter Pattaccini, mi ha detto bellissimo. Nel frattempo anche Mogol aveva individuato questo pezzo. Quando ci siamo incontrati per la prima volta gli ho detto: senti Lucio, Giulio, io ho un pezzo, anch'io, avevamo lo stesso pezzo, lui aveva già fatto il pezzo. Stessa cosa. Però adesso noi abbiamo, quando si suonava, innanzitutto premetto una cosa, la nostra è una generazione, e lo continuo a ripetere, che non sapeva suonare, la nostra generazione, compresi i Beatles. Anche no? I Beatles, giustamente. Cioè, i Beatles c'era, dunque l'unico che sapeva suonare era George Harrison, che sapeva veramente suonare abbastanza bene. Perché John Lennon aveva imparato da sua mamma, che era scappata, poi era ritornata, a suonare il banjo e faceva gli accordi con due corde, no? E Paul McCartney aveva preso un manico di scopa, io ho letto tutta la storia, e diceva: tu sai suonare il basso? Non erano della stessa scuola, e hanno fatto un primo gruppo che si chiama i Quarrymen. Cantavano del rock and roll, loro vivevano. Erano inglesi, quindi respiravano il rock and roll, no? Tra l'altro John Lennon era stato allevato da sua zia, sì, Minnie, certo, tutto con la musica classica, che ritornò sua madre, che è un tipo un po' strano, no? E lo portò a vedere un film di Elvis Presley, questo qua impazzì e cominciò, certo, a diventare, voleva dire. Allora fecero questo gruppo e George Harrison, appena vide John Lennon che suonava, dice: guarda John, posso essere sincero, è meglio che ti dai una regolata, perché gli accordi non si fanno così. La chitarra non si prende in questa maniera. No, bisogna piegare sei corde, perché con quattro corde non fai gli accordi. Sì. Puoi fare. Vabbè, comunque per dirti che è una generazione che è riuscita a uscire solo, non tanto per le capacità tecniche, cioè se tu pigli un ragazzino adesso di 17 anni suona come Van Halen, però qua, lì c'era tutta la voglia di esprimerci e di sperimentare, soprattutto, no? Noi compresi, cioè noi difatti avevamo quattro piste e dovevamo suonare in contemporanea, cioè non è che facevamo solo così, adesso c'è 100.000, 150.000 piste, 20.000 suoni, che poi lì i suoni erano quelli che erano. Allora abbiamo fatto le basi, abbiamo fatto prima la base, poi su una pista, poi su un'altra pista abbiamo messo la voce. E poi avanzavano, abbiamo fatto un premissaggio e avanzavano due piste per i cori. E poi Lucio ci ha seguito abbiamo fatto tutta la base insieme, ci dava la base era venuta molto bene. Poi abbiamo cantato con la voce solista e poi abbiamo fatto i cori. Lui si era assentato, quando è tornato ha voluto sentire e ha detto: regà, bello tutto, qua c'è qualcosa che non funziona, qua mancano delle voci, mancano le armonizzazioni. Allora abbiamo rifatto tutto, cancellato tutto, ci ha detto tu devi fare questo, perché lui era bravo armonicamente, era uno preparato musicalmente, uno dei pochi, tu fai questa voce, tu fai questa voce, dentro nei cori dei suonanti della California c'è anche la sua voce, sì. Ma spesso c'è la sua voce in tutti i nostri dischi, e spesso lui, non so, suonava un po' la batteria, un po' la chitarra, un po' il basso, che suonava un po' di tutto, gli piaceva anche così. E niente, è stato una cosa preziosa per noi, ma anche per lui. Noi siamo stati preziosi per lui, perché noi siamo stati il banco di prova su cui lui si è formato. Poi quando è partito e ha cominciato a fare canzoni di successo e a cantare, quando andava in studio di registrazione sapeva esattamente come si muoveva il meccanismo, aveva capito grazie a noi, perché quando non eravamo nessuno, la ricordi, per avere la sala di registrazione dovevamo aspettare magari un mese, sì. Nel momento in cui abbiamo venduto più di 1,5 milioni di dischi con il suonante della California, bastava che diceva dai andiamo in sala, telefonavamo, abbiamo bisogno della sala, subito prima le porte, andavamo lì a sperimentare dei suoni, spostavano gli altri per far spazio, perché eravamo la gallina dalle uova d'oro, cioè, no? Allora ricordiamo i nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto che stiamo piacevolmente conversando con Pietruccio Montalbetti di Dick Dick. È uscito un libro che ha scritto Pietruccio, si intitola Io e Lucio ed è uscito per la Edizioni Salani, e noi stiamo parlando un po' di tutti quelli che sono gli aneddoti collegati a Lucio Battisti e alla grande amicizia di Pietruccio con lui. Diciamo che la vera funzione di questo libro è per farne capire il carattere. Poi è diventato ostico, anche perché noi andavamo in giro per Milano, una città semi diversa, dove la movida a mezzanotte era tutto più, andavamo in giro, avevamo pochi soldi, magari andavamo in un bar a berci, bevevamo, non so, chiacchieravamo, più che altro andavamo in giro a chiacchieravamo un po', andavamo magari lì in Piazza del Duomo, ci sedevamo sui gradini del Duomo a chiacchierare così. E io conoscevo, avevo capito, era uno che ascoltava ma parlava poco di sé, per tirargli fuori delle cose della sua famiglia ho fatto molta fatica, ho dovuto, una volta un po' bevuto, ha tirato fuori delle cose che inedite, ma era uno che ascoltava, parlavamo un po' della vita, quando si è ragazzi avevamo lo stesso tipo di cultura, parlavamo un po' in maniera, sai, filosofica, cosa pensi della vita, tu credi in Dio, ma cosa pensi? Un giorno mi disse, ma tu, se noi diventiamo famosi, che cosa vuoi della vita? Io gli dissi, guarda, io la cosa che diventassi famoso, la prima cosa che voglio è comprarmi una barca a vela e girare il mondo da solo. E poi gli ho detto, tu invece, guarda, io non ho molte pretese, io voglio semplicemente avere una casa, una famiglia col giardino e riuscire a esprimere quello che ho dentro che non riesco, c'ho dentro una forza che non riesco ad esprimere, che poi è riuscito a farlo come vuole. L'altra volta mi fece un'altra domanda a bruciapelo e mi disse, ma tu hai paura della morte? Ma gli ho detto, guarda Lucio, dirti la verità, la morte è la logica conseguenza della vita, cioè la morte è un po' come dice Shakespeare, di morire come dormire, in fondo io ho paura della sofferenza, non tanto della morte, perché tanto è inevitabile, ineluttabile questa cosa, cioè bisogna affrontarla il più tardi possibile, ma poi io non credo, non sono un credente, ma credo che ci sia qualche cosa al di là, qualche cosa che sto elaborando dopo i lunghi viaggi, ho delle mie teorie un po' particolari che adesso sarebbe troppo lungo da spiegare, ci vorrebbe un altro programma, anche perché certo. Non ho assistito a cose aliene, no, assolutamente, ma ho visto delle cose in Africa, in Asia, che mi ha fatto riflettere su, poi ho letto la Bibbia da cima a fondo, i Vangeli, ho letto Better Race, adesso sto studiando fisica, cioè e ho dei dubbi, dei grandi dubbi, vorrei avere fede, ma non riesco ad avere la fede, è una cosa che tu hai o non hai. Certo. E, allora la sua risposta fu, guarda, anch'io non ho paura, non ho paura della morte, anche come te dico, avrei paura della sofferenza, ma la cosa che io vorrei è lasciare qualche cosa di importante nella vita, farmi ricordare. Io so che lui, so nella maniera in cui povero Luci è morto senza soffrire, lui ha firmato un accanimento terapeutico perché era spacciato, adesso non l'ho spiegato vagamente, ma io so esattamente tutto perché io collaboro certe volte con il San Paolo di Milano, così per beneficenza, e quindi sono in contatto con i medici, mi hanno spiegato tutto. Ma nessuno muore felice, ovviamente, tutti moriamo scontenti, perché forse, però io penso che un po' di non sia morto infelice, innanzitutto senza dolore, ma è morto ottenendo quello che aveva sognato, di lasciare una traccia indelebile per sempre, perché secondo me Lucio, a differenza di molti altri cantanti che io stimo, no? È come il nostro Mozart, cioè lui è riuscito, mentre io sono un esploratore del mondo e ho viaggiato in giro per il mondo da solo per capire l'esterno ma anche l'interno, da solo significa ho viaggiato in India immergendomi nella cultura indiana, sono stato in Amazzonia, in Tibet, in Nepal, ho scalato montagne di 7.000-8.000 metri da solo, cioè lui era un esploratore della musica, non ha mai ripetuto se stesso, anche quando ha fatto questo grande passo con Pannella, che è stato molto criticato. Io poi, dopo una lunga discussione fatta una notte, mi ha tenuto lì fino alle 4, ho riflettuto e ho capito il vero motivo per cui si era diviso con Mogò. Non era una questione di denaro, non era una questione, come dicono, una questione di denaro, di confini. Era che lui, un artista, ha sempre un artista, uno che ha il temperamento artistico, ha sempre bisogno di cambiare qualche cosa. Tant'è vero che tu mi stai pigliando in un momento in cui, in questo momento, ho scritto fine ad un nuovo libro, proprio 3 minuti prima, un libro di 350 pagine, che è ne ho 9 di libri. Quindi è una... cioè vorrei fare del teatro, un artista ha sempre bisogno di cambiare, non può essere sempre se stesso. E lui, facendo una paragona alla pittura, lui per anni ha fatto dei grandi bei ritratti di madonne, di angeli, di putti, di amore, cioè le sue canzoni erano meravigliose. Però lui si è stancato di fare i ritratti così bucolici e ha voluto esprimere se stesso come se fosse un pittore che dice beh adesso io faccio un impressionista, l'astrattista, ed è diventato un astrattista, non aveva più voglia, avrebbe potuto benissimo continuare a fare le sue canzoni perché aveva un bagaglio culturale, musicale ampio, invece lui si è giocato con la critica di tutti, facendo delle cose che se avesse avuto tempo avrebbero tutti apprezzato, perché sono io li ascolto ogni tanto e ci ritrovo dei capolavori. Innanzitutto in ogni canzone ci sono almeno 4 spunti per fare 4 canzoni, certo, ma di melodia. Allora Pietruccio, ancora una breve pausa legata alla musica, legata sempre all'epoca Dick Dick del 1968 con Il Vento, sempre scritta da Mogol e Lucio Battisti. Del mattino e tu ancora stai dormendo. Ho già fatto le valigie e adesso sto scrivendo. questa lettera per te, ma non so che cosa dire, è difficile spiegare quel che anch'io non so capire, ma fra poco me ne andrò e mai più ritornerò, io ti lascio sola. Quando salza il vento, quando salza il vento, no, più fermare non si può, dove vado non lo so, quanto male ti farò, non ti svegliare mai, no, non ti svegliare mai. Cara, le mie mani stanno tremando, i miei occhi stanno piangendo, a me sembra di strappare qualche cosa dentro me e vorrei gridare no, ma se guardo quella porta io la vedo già aperta ed ho voglia di fuggire, di lasciare dietro me tutto quanto insieme a te, di partire solo. So quanto male ti farò, oh, non ti svegliare mai, no, non ti svegliare mai, non ti svegliare. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Siamo ascoltati un brano del 1968, Il Vento, Mogol Battisti, e si sentiva molto di Battisti di quel tempo con la canzone di Dick Dick che ci siamo ascoltati, e noi siamo in piacevole conversazione con Pietruccio Montalbetti che ci sta presentando il suo libro, si intitola Io e Lucio Battisti per le edizioni Salani. Allora Pietruccio, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al suo modo di fare le canzoni. Lui predicava, diceva sempre, le canzoni devono avere pochi accordi. Tant'è vero che la canzone Il Vento è fatta con due accordi, cioè Sol, Mi bemolle, Sol, Mi bemolle, poi c'è un passaggio, ma è Sol, Mi bemolle. Come non so, anche Vendo casa, quello che dice l'erba è alta, ormai lo so, è costruita con un giro armonico che è la prima cosa che impari, che è il giro di Sol, con il quale sono fatte tantissime canzoni, tipo Sapore di sale, oppure In the Night, Stand by Me e tante cose. Però la sua bravura fu nel sovvertire, perché se tu guardi nella prefazione che mi ha fatto Renzo Arbore, dice che ha sovvertito ogni regola. Ad esempio, invece che partire dal sol, lui parte dal terzo accordo. Io quando faccio i miei recital dico sempre, considerate questa cosa, numeriamo gli accordi, se tu dici sol, mi minore, la minore, re, non sanno cos'è, però numeriamo questi accordi, diciamo 1, 2, 3, 4, lui invece parte dal, che vedi che c'è un suono, lui invece parte dal terzo accordo e fa 3, 4, 2, 1. Sono sempre questi quattro accordi, ma la sua genialità è che parte dalla minore, cioè sembra una sciocchezza, ma è tutto un giro, è sempre questo giro, c'è questa, ci sono queste atmosfere che abbiamo creato insieme, che sono, non sono tanto datate. Quindi il vantaggio dei nostri dischi è che non sono datati, sono datati per il fatto che rappresentano, però siamo, abbiamo sempre curato molto nel possibile i suoni, cioè basterebbe rimasterizzarli, non sono, non so, non abbiamo mai fatto canzoni banali come Il ballo del qua qua, che ha avuto un grande successo. Abbiamo sempre scelto delle canzoni che avessero un senso, cioè proprio volutamente. Io ero quello che sceglievo le canzoni e un po' ho insegnato a Lucio, io sono uno molto preciso e attendibile, cioè a parte questo piccolo disguido che abbiamo avuto, però quando io dico una cosa, o succede un incidente, ma sono uno preciso nelle cose. Tra l'altro non sono maniacale, non ho, però quando faccio una cosa cerco di farla bene. Tu pensi che sto scrivendo questo libro che si intitola La storia di una 500, è 5 anni che ci sto lavorando, ma non 5 anni che sto scrivendo, perché è la 15ª volta che lo riguardo, perché voglio arrivare alla perfezione, alla perfezione. Cioè, com'era perfetta la 500 così? No, ma è la perfezione perché è tutta una storia così. Però questo libro di Battisti, che cosa vuole raccontare? A parte gli aneddoti che sono molto divertenti. Ma... Pronto? Pronto? Non sentiamo più Pietruccio? Ecco qua, vai, sei ritornato. Sì. Ecco, voglio raccontare chi era Lucio Battisti uomo, non vivo. Poi è andato in confusione. Io tra l'altro, quando ho cominciato a cantare, conoscendo il suo carattere, gli ho detto: guarda Lucio, stai attento, non è fare la rock star, non è per te. No, ma mi piace, perché lui vedeva che mi chiedevano gli autografi, era sempre con me, autografo. E lui gli piaceva, diceva: guarda che però ricordati una cosa, che tu nei momenti in cui avrai successo, che probabilmente avrai successo, perché le tue canzoni cominciavano a essere interessanti, se avrai successo come tu speri, e anch'io spero per te, dovrai condividere la vita con gli altri. Un conto è parte di un gruppo, ma un cantante dovrai condividere la vita con gli altri. Tanto è vero che, non so, puoi immaginare, non so, Vasco Rossi che dice: vabbè, adesso vado al cinema, non so, a Vicenza. Cioè, è un problema. È possibile. Non è che può andare, sì, va al cinema, però diventa un fatto, un po' un trambusto, una cosa, cioè, o va al ristorante, cioè, non è, cioè, o ti piace o non ti piace. Tanto è vero che quando poi lui si è ritirato, io un giorno, sai quelle famose parole, te l'avevo detto, gli ho detto: vedi Lucio, te l'avevo detto io. E lui si è ritirato perché non sopportava di stare in mezzo alla gente, non gli piaceva il successo, non gli piaceva solo la musica. Lui era veramente preso dal fuoco musicale che c'aveva dentro. A lui bastava, c'è tanto vero che ha continuato a fare dischi, ma non si è fatto più vedere. Certo. Ma mica per posa, non gli interessava. Ma noi andavamo fuori a mangiare, mi ricordo una volta siamo andati fuori, lo scrivo anche lì, siamo andati a Lecco a mangiare, dopo avergli raccontato il mio viaggio in Messico, che mi ha tirato la testa quadra, non ce la facevo più. Sì, perché lui voleva sapere tutto, vero Pietruccio? Tutto. Lui mi ha insegnato una cosa: a raccontare nei particolari e a scrivere nei particolari. Quando leggerete i prossimi libri, vi sembrerà di entrare in questi mondi magici che io ho vissuto nelle foreste amazzoniche, in montagna. E siamo andati a Lecco, a un certo punto alle 8 ho detto: Lucio, andiamo a mangiare, non c'era niente in casa, a casa tua. Tra l'altro uno si immagina la casa di una rock star, come se lo immagina di Sergio Sponso. Era una bella villa, allora non c'era ancora l'Ikea, ma c'era Iazzone, era tutto tipo Iazzone, mobili normali così, non aveva la piscina, aveva un grande parco, aveva uno studio di registrazione in mezzo al parco così, era uno che facciava l'erba per conto suo, allora, conduceva una vita non da rockstar, aveva una Mercedes, ma quelle normali, non ho mai visto, non so, con un Rolex o qualche cosa che equivalesse più di, non so, 50.000 lire, cioè, ma non perché fosse avaro, non gliene fregava niente, non gliene fregava niente di tutto quello che era l'esteriore. E noi siamo andati a questo ristorante alle 8, come siamo entrati, era una giornata in pioggia, così siamo entrati un po' incappucciati, ha tolto il cappuccio e tutti, ah, Lucio Battisti, Lucio Battisti. Lui si è incazzato, ha detto, no, io non sono Lucio Battisti, basta questa cosa, mi pigliano tutti per Lucio Battisti, ma non sono io. E poi vengono da me e mi dicono, tu sei quello dei Dix? Sì, io sì, ma io sai, ero, sono ben contento quando la gente mi riconosce ancora adesso, perché quelli che dicono, ma sai, no, vuol dire che non hanno capito, che tanto sì, che ti riconoscono, sei qualcuno, quando non sanno più chi sei, è finita. Allora mi fanno, ma lui è Lucio Battisti? No, non è Lucio Battisti, no. Io dovevo mentire proprio, ma anche altre volte, non so, in altri posti, andavamo in giro per Milano, ah, Lucio Battisti, ciao, faccio un autografo, e lui diceva, no, io non sono Lucio Battisti. Poi una volta lui non fece un autografo a una persona a cui doveva farlo, che era la moglie di uno di noi, la quale gli chiede di fare un autografo per i suoi bambini. Lui gli disse, a casa sua, gli disse, no, io non faccio autografi. Vabbè, e poi li abbiamo fatti noi per finta, erano bambini piccoli. Poi due settimane dopo lo vado a casa sua, poi intanto mi chiamava e mi diceva, tu dai, vieni qua. Come arrivavo c'erano fuori fotografi, no? Mi dicevano, dai, facci entrare. E poi c'era la portiera, perché c'era una specie di posto con del tante villette e così. Allora si chiamava Elvira, buongiorno signora Elvira, meno male che arriva lei, perché quest'uomo qua è sempre da solo, meno male, così le fa un po' di compagnia. Allora un giorno, dopo due settimane di quell'increscioso, quell'incresciosa serata in cui negò un autografo alla moglie di uno di noi per i suoi bambini, gli disse, senti Lucio, posso dirti una cosa? Cioè, hai fatto male a fare questa cosa qua. Ma no, perché sai, lui aveva un po' di suggezione nei miei confronti, mentre io lo vivevo così, come quello che con le pezze al culo che ci aveva incontrato, no? Alla fine gli ho detto, guarda, scusa, posso dire una parolaccia in radio, piccola, no? Gli ho detto, guarda, scusa, non ti offendere, ma sei uno stronzo, scusa, cioè, perché, ma cosa dici immorale? Cosa vuol dire immorale? Cioè, immorale, cioè, noi ti ricordi, gli ho detto, ma ti ricordi quando noi avevamo 1.000 lire in tasca io e tu 300 e facevamo i conti se potevamo mangiare o no? Se siamo diventati famosi, tu sei diventato ricco e benestante, anche molto più di me, ma comunque non è quella la quantità, lo devi alla tua bravura, alla tua genialità, ma al fatto che la gente ti ha comprato i dischi. E quindi tu hai un dovere nei confronti. No, io non me ne frega niente, io ritengo che sia immorale. Beh, sei immorale, però quando pigli le royalty, però non è immorale. Io gliel'ho detto, perché io gliele dicevo le cose, certo. Non sto mica tanto a girarla. Allora, no, per scoprire tutto quello che hai detto a Lucio, invitiamo ancora gli ascoltatori a far proprio questo libro di cui tu sei autore, quindi Io e Lucio Battisti, edito per la Salani, e quindi potrebbe essere un buon libro per passare, diciamo, l'estate. Guarda, devo aggiungere una cosa, innanzitutto, prego, che c'è una prefazione di Renzo Albore, come diceva. Sì. Poi inaspettatamente ho ricevuto un mese fa una lettera con ufficiale come lettera, c'era scritto Corriere della Sera. Mi avevano dato una pagina intera sul Corriere della Sera. Dico, il Corriere della Sera, non so, mica vorranno dei soldi, non so. Apro questa lettera e c'era un biglietto con scritto, caro Pietruccio, ho letto il tuo libro e sono rimasto molto colpito e molto emozionato, perché mi ha fatto ricordare un periodo che è stato un periodo molto felice per me, e le canzoni di Battisti mi hanno accompagnato. Firmato Ferruccio De Bortoli, che è il direttore, e ce l'ho ancora qua, Ferruccio De Bortoli, firmato dal direttore del Corriere della Sera. Mi ha ringraziato. Poi mi ha ringraziato anche, non so, il direttore del decisore delle canzoni, mi ha telefonato, mi ha detto, guarda, hai scritto una cosa troppo emozionante, Poi quello di Virgin Radio, il direttore di Virgin Radio mi ha telefonato, mi ha detto peccato che non, purtroppo non, non, poi ci siamo, abbiamo mangiato assieme, mi ha detto peccato che io, è una radio che non prevede la musica dei Dig Dig, giustamente, cioè perché è tutto un altro mondo, però guarda, varrebbe la pena di fare qualche cosa, perché il libro è veramente unico, perché tutti hanno scritto di Battisti famoso, sì. Ma chi era Battisti? Cioè, da un punto di vista umano era una persona deliziosa, poi col tempo non è che si è montato la testa, si è incupito, non so cosa gli sia successo, poi la malattia forse che io, di cui io mi sono accorto solo gli ultimi tempi, perché io lo vedevo ma non mi ero mai accorto di questa cosa qua. Lui era uno molto silenzioso, parlava poco, così, però era una persona, innanzitutto poi sfatiamo questa cosa che fosse che finanziasse Ordine Nuovo, mica vero, erano assolutamente sì. tutte fandonie, tutte chiacchiere aggiunte inopportune a volte, sì. No, fatte per fare del male ad una brava persona come era, cioè in fondo. Benissimo, allora Pietruccio, veramente sei stato incisivo nella presentazione di questo tuo libro, quasi ci sembra di averlo letto e riletto assieme a te in questo momento, io e Lucio Battisti, chiedo scusa, e, questo è il titolo per la edizione Salani, quindi un valido libro per questa estate. Allora noi ti ringraziamo, Pietruccio. Tra l'altro c'è una copertina, sì, molto bella, firmata, sì, da mio fratello. Tuo fratello, chiaramente. Sì, certo. Che poi in arte Cesare Monti, chiaramente, che ha fatto tutte le copertine, sì, di Battisti, quindi la copertina è un gioiello. Esatto, sono una delle quattro persone in Italia che conoscono, sì, veramente Lucio. Benissimo. Allora, bene, ragazzi, noi concludiamo la trasmissione con un altro pezzo di Dick Dick, si intitola Nel cuore e nell'anima. Un pezzo meraviglioso scritto per l'Equipe, poi è stato passato a voi, o c'è stata una polemica? No, c'è stata una polemica. È stato scritto per noi. Poi invece per una questione di è stato poi assegnato all'Equipe, ma noi l'avevamo registrato. L'arrangiamento l'aveva fatto Lucio, sembravamo i Beach Boys. È vero, cioè, è verissimo. Era bellissimo, c'era un finale, e quando ce l'hanno sottratto Lucio era incavolatissimo, però sai, è una questione di politica interna, certo. Cioè, ce ne hanno fatte di tutti i colori, cioè, vabbè. Ne riparleremo per una prossima intervista. Comunque, parleremo anche dei tuoi viaggi, Pietruccio, dei tuoi libri. No, parleremo anche dei concerti che stiamo facendo. Ah, quello sì. Quest'estate, che sono abbastanza buoni quest'anno nonostante la crisi, e sì, probabilmente vedremo anche dalle vostre parti. Benissimo, facci un colpo di telefono, sarai nostro ospite, sì, qui all'interno, sì, sì, anche bene. Ok, salutaci anche gli amici di Dick, e bene, niente, grazie. Ti auguriamo una buona notte. Buonanotte, grazie Pietruccio di tutto, e a presto. Grazie, ciao, benissimo, ciao. E allora noi ringraziamo Pietruccio Montalbetti per averci dedicato questa trasmissione parlando del suo libro, ricordiamo, Io e Lucio Battisti, e quindi noi ci lasciamo ascoltando questo pezzo, Nel cuore e nell'anima, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, buonanotte a tutti, eccoli qua, Dick Dick ancora una volta. C'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato, nessuno mai, se tu vorrai, yeah, conoscerlo. Se tu vorrai conoscerlo, cammina piano perché nel mio silenzio anche un sorriso può fare rumore. Non parlare, non parlare,